In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the lion sleeps tonight. Grandissimi radioascoltatori, benvenuti a Radama. Finalmente siamo tornati con 100 città dopo che vi abbiamo abbandonato, e mi dispiace veramente tanto. Una settimana, questo giovedì, purtroppo c'è stato un problema di carattere abbastanza grave che ha riguardato il nostro regista Giulio, che purtroppo non poteva venire qua in trasmissione perché aveva l'aperitivo, una partita di calcetto, e quindi ci ha chiamato all'ultimo momento e ci ha detto: ragazzi, io ho di meglio da fare, arrangiate. E allora noi a quel punto abbiamo detto: ok Giulio, almeno la prossima settimana ci sei, ci darai l'onore. E lui ha detto: ok, ciao Giulio, grazie. Questa per... è puramente... No ragazzi, è la verità, e io sono veramente amareggiata, e colgo l'occasione per chiedere perdono veramente a tutti voi per quello che è successo. Dillo che sei debole. Non regge alla stagione belga. No, la verità è che quello che sto dicendo è assolutamente vero. Giulio aveva un impegno, perché sapete che il nostro Giulio sta riscontrando un sacco di successo in tutta Bruxelles, e infatti approfitto per salutare le fans che sono qua fuori. Ciao ragazze, che si appostano ogni... la strada, no? No, che si appostano ogni giovedì sera, che bloccano la strada, esatto, con gli striscioni e i cori, e aspettano Giulio che esca e cercano di capire qualche autografo, uno sguardo, ma Giulio niente, impassibile, freddo proprio. E poi volevo ringraziare le centinaia, migliaia di milioni di lettere e di mail che ci arrivano praticamente ogni giorno qui a Radio Alma, chiedendoci: fate la nostra città, quando venite a trovarci, piano piano arriveremo dappertutto. Purtroppo, come deciso il nostro art director Roberto Antonicelli, il nostro programma è una volta a settimana, e quindi piano piano andremo a fare tutte le città, noi ci proviamo. Però volevo riferirmi in particolar modo a un'email che mi è arrivata di Cariddu, che mi ha chiesto: ma quando è che mi viene a trovare qua in Sardegna? E Cariddu, oggi a trovarti veniamo, perché oggi sai dove andiamo? Andiamo a Cagliari e andiamo a parlare di Casteddu, che Casteddu sarebbe appunto il nome di Cagliari in sardo e in spagnolo e catalano Caller. Cagliari e la sua area comprende i comuni di Monserrato, Sellargius, Quartuccio, Quartus Sant'Elena, Capoterra, Elmas, Assemini e Sestu, e raggiunge 370.000 abitanti, che divengono 475.000 con l'agglomerato urbano. L'etimologia: si dice che Cagliari venisse chiamato in greco antico Calares e in antico Caralis, e Roderico Unno Baeza nel XVI secolo, un umanista sardo, affermò che Caralis derivasse dal greco cara, che significa testa, poiché Cagliari era il principale centro dell'isola. Addirittura Max Leopold Wagner si esprime su Cagliari e fece risalire il termine Caralis al proto-sardo. Inoltre il toponimo Caralis è da collegare con gli appellativi Caracallai, Criallei, Trielle, Chirelle, Ghirelle, che significa crisantemo selvatico, oppure Garuleo, Galureo, Galileo, che è il polline depositato nel miele, che è di colore giallo-oro. Sei sardo se conosci le persone in internet, ma ti vergogni di parlarci di persona. No! Sei sardo se già quando hai un anno mangi sartizzu e civrassiu. Sei sardo se hai la marmitta modificata o i neon blu nella macchina, fantastico. Sei sardo se vai allo stadio con la macchina piena di gente vestita con i colori della tua città, con la sciarpa fuori dal finestrino, e imprechi contro la squadra avversaria. Oppure sei sardo se vai a fare il militare perché non sai che fare nel tuo futuro. Adesso parliamo di musica e abbiamo in linea Sandro degli Ascra, che è un gruppo sardo, e sentiamo un po' cosa ci racconta della realtà musicale che abbiamo su questa splendida isola. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, voi. Benvenuti a Radio Alma. Benvenuti grazie, a te. Grazie per l'invito. Benvenuti agli Ascra. Grazie. Allora, voi siete un gruppo che suonate, che fate rock? Sì, noi facciamo ska rock e siamo della Sardegna. Tra l'altro splendido, perché cantano proprio in sardo e dopo vi faremo sentire una canzone, sono veramente delle belle canzoni. E dici un po', la realtà musicale attiva lì dove state voi oppure è un po' dormiente come in tutta l'Italia? Sì, guarda, c'è un appiattimento un po' generale dovuto un po', sai meglio di me come funziona un po' il mercato delle case discografiche, che poi tendono a soffocare sempre le piccole realtà e chi ha qualcosa da raccontare, appannaggio insomma dell'etichetta, della vendita di dischi, quindi gran parte del panorama musicale sia sardo che italiano va costruito un po' tutto a tavolino, quindi secondo dettami che sono quelli del mercato. Negli ultimi anni diciamo che non c'è granché da seguire. È vero, infatti veramente il panorama musicale adesso in Italia è poco dinamico, ci sono poche novità, e invece quando si sentono dei gruppi bravi come voi bisognerebbe spingere, perché veramente siete particolari, non c'è ancora un gruppo bello lanciato sulla scena italiana musicale. Qui faccio un appello a tutte le etichette che prenda un gruppo veramente tipico che magari canta in sardo, perché la realtà sarda è una realtà molto importante, il sardo è proprio una lingua, no? Sì, infatti, ti ringrazio innanzitutto per i complimenti, spero che tu abbia la possibilità di sentire anche il nuovo disco che è in uscita, lo dico così in anteprima, fra qualche settimana, abbiamo finito la fase di mixaggio e uscirà a breve. Mm-hmm. Sì, la situazione non è semplice, perché poi siamo anche un po' così handicappati dal fatto che cantiamo in sardo, ma per noi questo non è un handicap, Noi spingiamo molto per l'esaltazione di quelle che sono le diversità, andiamo contro quelle che sono le discriminazioni, molta gente confonde questo e quindi cerca di soffocare le piccole realtà, perché poi non hanno un riscontro a livello di mercato, quindi anche le piccole etichette non contano molto su gruppi del genere piccoli, e noi infatti siamo un gruppo autoprodotto e molti si stupiscono del fatto che noi lo siamo già al quinto lavoro, però purtroppo è un gioco forte, bisogna fare così, anche perché se vuoi difendere certi ideali come quelli dell'identità culturale, etnica, devi fare così, devi alzare la voce per quello che puoi, se no poi devi scendere sempre a compromessi che ti permettono di esprimerti in maniera molto limitata. Hai ragione, hai ragionissima. Noi facciamo un genere che è rock e ska, dove siamo belli tutti in movimento, e quindi abbiamo bisogno di un po' di spazio, che sì, che cerchiamo anche col pubblico che ci sta di fronte, perché non siamo noi sul pubblico e loro a guardarci, ma cerchiamo di essere anche noi in mezzo a loro, quindi per creare una situazione che coinvolga tutti senza fare le star, insomma siamo un po' così alla mano, certo. E ci piace quando la gente, anche su 100 ci sono 10 persone che ci apprezzano, quindi questo è il nostro obiettivo primario, diciamo. Il nostro sito è www.askra.it. Facci sentire un po' di questa Sardegna qua in diretta. Pistala, Zabba Pistala, Abbaiti e Abbaista. Sei un grande, ce lo vuoi tradurre? Sì, lo traduco volentieri per voi, sarebbe come dire, puoi pescare l'acqua quanto vuoi, acqua era e acqua resterà. Quindi anche per chi vuole tenere alte le proprie idee, che non deve mai passare la testa. Questa è veramente pura saggezza, è vero. Sei un grande. Allora ti ringraziamo tanto per la telefonata, per la chiacchierata e per il proverbio. Ciao, grazie a tutti, ciao Sandro. Ciao. Grande, allora abbiamo parlato con Sandra degli Askra, veramente simpaticissimo, ma comunque chi una verve come hanno i sardi non ce l'ha nessuno, questo è veramente da dire, veramente simpaticissimi. E adesso ovviamente potremmo ascoltarci una canzone proprio degli Askra. Eccola! Canto pruere, chi bitene si sacara. Canto sino in intro desanima. E cantar gloria, chi no armai poi tu idere. Una vita colata in si strada. E dove stanno los caminos hermosos? E dove stanno los sueños de los niños? E los caminos van trepándose. Fantastica questa canzone che abbiamo ascoltato degli Ascra in sardo e anche un po' in spagnolo, se avete fatto attenzione. Sei sardo, se ti chiamano pecorara al nord e pensi castiammicu su calloni, che tanto d'estate viene in Sardegna a fare i casino a rubarsi le pivelle più buone. Eccole per le... Sì? Scusa se interrompo queste perle di saggezza, ma abbiamo un'altra telefonata. Qua contatti fioccano. Bene. Quindi abbiamo una telefonata. Benvenga. Non so se sia maligna, benigna, di lamento. Beh, speriamo benigna, no? Sembrava piuttosto... esagitato, però... Dice che sia il caso di metterlo in onda? Sì, sì, puoi parlare con il nostro... Oh, ok, il nostro... ciao, telefono. Ciao, benvenuta a Radio Alma. Pronto? Pronto? Io chiamo Radio Alma perché voglio promuovere la mia campagna per abolire il sardo dalle lingue parlate sul territorio nazionale italiano. Ma scusi, ma lei mi sembra sardo un pochino, no? Io sardo sono. Beh, sono di Mara Calagoni. Ma no, ma come si chiama? Si presenti. Io mi chiamo Mara. Mara. Diminutivo di Mara Laretu. Ma scusi, ma non è un po' abolire una lingua che... Cioè, è antichissimo. No, non voglio sentire scuse. Io adesso vivo al nord e tutte le volte al nord mi prendono in giro perché dicono che sono piccolo, sardo, scuro, basso. Io mi sono stancato. Adesso vado a fare lezioni di italiano per cercare di correggere la mia parlata da sardo. Ma no, ma queste... Però non ci capisco niente. No. Ma queste persone sono delle persone scorrette che la prendono in giro. Ma dove abita, mi scusi? Ma io non riesco a capire. Io abito nella città di Bologna adesso. Mm. Però a Bologna dicono che nella lingua italiana il verbo avere va in mezzo alla frase e non in fondo. Per esempio, faccio un esempio. Io ho mangiato la mela. Sì, esatto. Ma no, non è così. No. Ho mangiato la mela, io ho, si deve dire. Ah, perché loro insegnano queste cose? Loro io sardo, mi sono rotto le scatole, voglio abolire la lingua sarda da tutto il territorio nazionale italiano. Beh, allora lei si arrende facilmente, scusi, invece di insegnare ai bolognesi come si usa correttamente il verbo avere, lei si arrende così facilmente e vuole abolire il sardo. Provate, ma gli hanno dato del pecoraro. Io odio quando mi danno del pecoraro. Io se fossi in lei non mi arrenderei, continuerei la battaglia. Facciamo così, se lei mi dà una buona ragione perché io non dovrei abolire il sardo, allora cercherò di far imparare il sardo a tutti. Beh, lei non deve abolire il sardo perché soprattutto ci fa ridere e ci fa divertire. E poi è una lingua che ha dei secoli e millenni alle spalle, non si può. Ha un'origine storica, ha una storia. Lei fa parte di questa storia, si rende conto? Lei fa parte di questa storia, deve sentirsi importante. No? Vince lei, Ha cambiato idea? Facciamo così, facciamo colpo di Stato. Passatemi il Parlamento Europeo. Va bene. Le elezioni mettiamo la Sardegna come lingua parlata ufficiale in tutta comunità europea. Deda, io sono stato al Parlamento. Il nome d'arte per candidarmi come presidente durante la propaganda elettorale. Ma diceva Giulio che è stato al Parlamento. Sono stato in visita al Parlamento. In effetti manca la cabina, sai, in alto ci sono le cabine dei traduttori. Ci sono 28 lingue, c'è anche il gaelico. Sì. Bisognerà proporre più presto il Stato. Infatti dovremmo proporre, lei potrebbe come futuro lavoro, perché sa, probabilmente un giorno ci sarà il traduttore del sardo, potrebbe presentarsi al Parlamento Europeo. Io mi propongo sotto il nome di, sento un po' se le piace, mi presento come Obama Cucuredu. No, guardi, sì, può essere bello, Obama Cucuredu mi piace. Allora, io ti do un curriculum, io ti do un passato da politico, da sostenitore politico, io sono stato capo ultra curva nord del Mara Calagoni. Allora facciamo così, alla prossima elezione lei si candida per il parlamentare sardo, interprete sardo, e sicuramente immagino che avrà milioni di voti. E poi bene, allora dai, ci saluti con una perla di saggezza sarda. Una perla di saggezza sarda? Vuoi peccorare? Non sono mica qui per farvi delle massime filosofiche sulla Sardegna. Allora ci saluti. Anche voi siete noi che mi prendi in giro quando parlo in sardo. Ma aspettate sempre che il sardo debba fare la macchietta. Vengo al Parlamento Europeo come Obama Cucureddu e cambia le sorti del mio paese Sardegna. Allora ci saluti, oppure dica uno slogan per le sue future campagne politiche e poi ci salutiamo. Il suo slogan per le future campagne. Il futuro della campagna per lo slogan della lingua parlata sarda in tutta la comunità europea è imparato sardo, io ho. Perfetto, con questa perla, con questa massima salutiamo questo simpatico ascoltatore di Radio Alma che ci ha telefonato, che ci ha voluto rendere partecipi appunto della sua sofferenza interiore, perché comunque era una persona che soffriva di questa cosa. Il telefono continua a squillarmi nelle orecchie come tutti. Bello, è la nuova base radioascoltatori, che adesso con questa techno si sa che ci sono queste mode qua. Ma dimmi una cosa, noi che giriamo sempre per queste città. Sì. Ma tu, ti sei stata a Cagliari o in Sardegna o no? C'è un detto che dice che se conosci un sardo da almeno 3 ore, lui ti invita a fare le vacanze estive a casa sua. Quindi quello che farò io da adesso in poi, perché tanto da qui arrivare all'estate abbiamo del tempo, è farmi un buon amico, no? E così l'estate io vado a farmi la vacanza in Sardegna. Ma io l'ho fatto. Ah, te l'hai fatto? Un compagno di corso il primo anno di università, e devo dire che l'ospitalità sarda in realtà non ha nulla a che vedere con quelle che ti racconta. Cioè è molto di più. Veramente, sei stato a sbafo, riusciti. Hai mangiato, hai gozzovigliato in casa. Ho mangiato fiumi di mirto. E di Cnusa. E di Cnusa, che per chi non lo sapesse è la birra locale con anche lo stemma sardo. Ah, diritto, ma dove sei stata esattamente? Io sono stata ad Olbia. Ma dici un po', perché io proprio non mi so immaginare cioè la Sardegna, no? Che ci va da Briatore a te, no? Cosa vuoi dire con questo? No, voglio dire, cioè tu quando vai nei posti, nei locali, una birra la paghi come un posto normale oppure alzano i prezzi, capito? Non mi ricordo, c'erano ancora le lire. C'erano ancora, mamma mia, quando ci ah, perché te sei un viver, cioè hai 12 anni, ci sei stato quando erano ancora le lire, ci sei stata 2 anni in Sardegna. Però quindi maturo. Ti hanno portato i tuoi genitori, ho capito, questa è la versione. No. Quindi non ricordi, perché comunque, no, ricordo grande calore, grande festa. Grande calore perché hai bevuto troppa birra. È stupendo. Beh, certo. Festi in spiaggia incontrando personaggi improbabili. Per esempio questo grande Catruma. Chi sarebbe Catruma? Sosteneva di essere un mago e di poter passare attraverso il fuoco. Ed è morto in quella stessa sera. Se l'è cavata con una spruzzacchiatura nei piedi. Che personaggi insoliti. Ed era sardo. Beh, sardo al 100%. Ovviamente sì. E non hai incontrato qualcuno che dispensasse consigli, no? Avevo imparato un proverbio. Ci ho messo più o meno tutta la settimana per impararlo in sardo. Allora dimmelo. E adesso l'ho dimenticato. Ma dovrebbe essere qualcosa tipo: è un casino. In Germania, tutto lo pisello. Fate una torta su tedesco. Che momento radiofonico. È una cosa piena di significato. È un casino. In Germania tutti i bambini parlano il tedesco. Ah, bellissimo. Cioè, tra tutti i proverbi hai scelto proprio quello più brutto. Forse non è un proverbio, è più probabile che fosse una frase di qualche ubriacone del luogo. Che si trovò in Germania. No, allora te li dico io. Allora, perché il sardo, no? È terribile, il sardo è geloso, il sardo, no? Nei confronti della femmina, no? Si sa, è un po' così, no? E bisogna stare attenti, dice: sia femmina arrogante, te isbirgons tazzu maridu. Non riesco a fare l'accento sardo, ma vorrebbe dire: la donna arrogante svergogna il marito. Beh, oppure marito contadore, mogliere furunciula, marito tirchio, moglie ladra, capito? Cioè, è già qua, due belle pesanti ne hanno dette. Però questo è più bello, perché a me piacciono belli brevi, no? Bene narrato su diciu, dice bene il detto. Oppure a caducuridure sa briglia forte, al cavallo che corre freno forte. Ma chissà, ma veramente dovrebbero fare delle scuole per insegnare il sardo, secondo me. La lingua autoctona di Cagliari è proprio usardu, e per la precisione il campidanese, campidannesu, nella sua variante cagliaritana, casteddaiu, no? e tale idioma è parlato sempre meno dalle nuove generazioni del luogo, e mi dispiace tantissimo, no? Perché i giovani stanno perdendo questo accento, queste parole, questi proverbi, e diventano meno saggi, ovviamente. E quindi preferiscono utilizzare l'italiano, in quanto ad oltre essere l'unica lingua di cultura largamente diffusa nell'isola, tramite l'istruzione e mezzi di comunicazione di massa, è diventata ormai anche la lingua predominante nei rapporti sociali. E quindi niente, stiamo perdendo questo sardo veramente affascinante. Ma poi noi abbiamo parlato di questa Sardegna, no? Dei monumenti, dei proverbi, delle tradizioni. Però dall'altra parte c'è anche una Sardegna godereccia, no? La Sardegna dove ci va il VIP, dove ci va Totti, dove... Esatto, dove... Personaggi importanti. Personaggi molto importanti con le sue barchette, 20 metri, sì, e quindi... Io per fortuna non l'ho vista quella parte. No, ma mi hanno detto che tu quest'estate eri tra un Cuba Libre e un Martini, sì, al Billionaire. Certamente. E quindi non eri tu. Intanto continuiamo a salutare le fans che continuano a salutarci dal vetro, e Giulia appena uscirà dalla radio sarà assalito veramente. Se riuscite a conquistarlo, vi porterà a fare una vacanza in Sardegna. Dai suoi amici. Non rivede da più o meno 5 anni. Esatto, però l'ospitalità, però l'ospitalità dei sardi è sempre grandissima. Stavamo parlando sempre, arrivando in chiusura, stavamo parlando dei proverbi. Possiamo dirne un altro che a me piace moltissimo, che dice: inue non penetra sa femmina, manco su giallo. Dove? E questo è un po' offensivo, Giulio. Io però lo farei la versione maschile: dove non arriva la donna non arriva neanche il diavolo. Cioè, vuol dire che siamo molto furbe o molto maligne? Questa non l'ho capita. La seconda che hai detto. Molto maligne, dici? Però è anche furbe, no? E quindi... Furbe nel male. E quindi il sardo ammette la superiorità della furbizia femminile, nonostante il suo orgoglio. Oppure un altro molto bello è questo: in su mondo non bisciate i te fidare. Dai, questo lo puoi capire? Traduzione. Ma sai cosa potremmo fare? Potremmo analizzare questi proverbi e poi grammaticalmente costituire il dialetto sardo. E aiutare così il nostro amico che sta cercando di diffondere il sardo. Esatto, che sta cercando di diffonderlo, vuole diffonderlo a Bologna, poi magari chissà, verrà conosciuto in tutta Europa, perché vuole presentarsi addirittura al Parlamento europeo. Quindi niente, allora abbiamo parlato di Cagliari, abbiamo parlato dei suoi monumenti, ma abbiamo anche scherzato, abbiamo ricevuto delle telefonate simpatiche, abbiamo sentito anche rappresentanti di un gruppo musicale sardo. E poi soprattutto vi voglio salutare con questo: ricordatevi che se conoscete un sardo, dopo 3 ore vi invita a fare le vacanze estive a casa sua. Quindi è aperta la caccia al sardo, siamo solo a novembre, avete tutto il tempo per farvi un buon amico. Ciao!